se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Milan, quante chiacchiere che dite al mattino. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Le direzioni abbiamo deciso che è meglio tenerle senza streaming, non ci sarà nessuno, tanto nella società moderna, vi informo voi che siete utenti, la comunicazione arriva lo stesso anche senza streaming. Da soli. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Se diventava esclusivamente un palcoscenico per prendere un titolo del giornale il giorno dopo, più erano accese le discussioni, più prendevi il titolo del giornale il giorno dopo. Il segretario mi pare tutto tranne che in difficoltà. Lo streaming non si fa perché adesso è il momento di discutere. Senza streaming forse c'è anche più, come dire, più franchezza politica. Questo è stupefacente, perché non fate questa domanda al Movimento 5 Stelle che ci ha chiesto di farlo sempre e poi non lo fa più da un sacco di tempo? Noi semplicemente abbiamo deciso oggi che la discussione deve essere franca, aperta e che dobbiamo dirci alcune cose e che è bene farlo. Ragazzi, il dibattito sul mancato streaming della direzione del PD, ma chi se ne frega? Ma tutto meno oscurato. Oh, tutto oscurato, ma meno male, caro Vincenzo. Tanto, allora, facciamo una missione. Io non ho mai visto mezzo minuto, neanche quando c'era lo streaming. Ora che almeno non c'è lo streaming, ho la scusa di dire, vabbè, non so niente come voi che avete visto lo streaming. Zitti. No, no, hanno parlato però tra di loro. Hanno litigato Renzi e Franceschini, sono litigati come nelle coppie, stanno un po' litigati Renzi e Franceschini. Tutti zitti. No, no, non sono tutti zitti, Vincenzo, parlano, ma tutti zitti nel senso come streaming, lo stream. Non li vediamo litigare, tutti litigati sono. Ma come ha detto Renzi, su questo come dargli torto, il dibattito interno al PD interessa a 3 o forse a 300 persone. Forse 300 è anche troppo in Italia, eh? Siamo 60 milioni, fate conto. Allora, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare di cose che interessano al popolo oppure che interessano 300 persone? Che facciamo, la radio d'élite o la radio per tutti? Ditemi voi, eh? So Chiara che ci ascolta da Perth, tutti i giorni da Perth, è interessata a capire se Renzi e Franceschini litigano? Magari sì, magari tantissimo, io non lo so. Magari Chiara è un po' strana e si interessa di queste cose. Vabbè. Signori, sono le 6:34 minuti, mancano 15 svegli all'alba e poi saranno vacanze e poi saranno nuovi lidi. Intanto a Inzago ci sono 20 gradi, mentre a Novate Milanese, ci fa sapere Antonio, 24 gradi. A Rimini 27 gradi in attesa della notte rosa. A Paratico 21 gradi. Grazie Roberto. A San Pellegrino Terme 19 gradi, qualche nuvola. Ci fa sapere Marco, il ciclista. A Castelfranco Emilia, Modena, 22 gradi. Un forte abbraccio, Laura. a Pescara a 21 gradi. Bene, oggi sarò a Pescara, anzi a Ripa Teatina. Caro Luciano, a Ripa Teatina alle 21 in piazza lo spettacolo con Leonardo Manera. Oggi, più tardi arrivo a Pescara e a Ripa. Ed è venerdì. Signori, voglio salutare subito il nostro senatore Stefano Esposito del Partito Democratico. Ma tu c'eri o ti hanno messo in stream, ti hanno escluso lo streaming ieri? C'eri lì dentro? No, buongiorno, no, non c'ero ieri. Ah, non c'eri. Ah, proprio? Stavo in commissione a fare le audizioni delle associazioni degli autotrasportatori, pensa. A far finta di lavorare, è incredibile. No, io far finta nulla, lavorare seriamente. Insieme a Stefano Esposito c'è Angelo Maria Perrino che dirige affariitaliani.it. Buongiorno, ciao. Eccoci, direttore. Buongiorno a voi, ciao. Eccoci qua, allora signori. Ecco, invece c'è un'altra cosa di cui l'Italia parla. Ragazzi, ieri rispondevo a messaggi, poi non so, la gente chiedeva a me, anche gente che non si interessa di calcio, perché diceva, sei tifoso del Milan, conoscerai Donnarumma? No, non lo conosco Donnarumma, pur essendo tifoso del Milan. Vabbè, però avrai un'idea su Donnarumma e la maturità perché sei tifoso del Milan. Ma no, non ho un'idea, cioè ho un'idea, sì, se volete. Comunque, apriamo il Parlamento, si capisce niente, tutti i giornali dibattono. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così su Donnarumma e la maturità, Stefano, questo portierone diciottenne che dovrebbe essere esempio per i figli. Io, se Mattia, mio figlio, prendesse esempio di vita Donnarumma, Rumma, lo prenderei come il fallimento di tutta la mia vita. Cioè, proprio, dice, un giorno che mi arriva dice, il mio esempio di vita sarà Donnarumma, e dico, ma Mattia, io abdico da papà, basta. Ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato tutto. E un calciatore mica deve essere d'esempio per le nuove generazioni. Se le nuove generazioni si appigliano a un calciatore, siamo fottuti, ma voglio dire, no? Ma da un bel po', o no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Nel senso che poi Donnarumma ha appena firmato un contratto da 6 milioni di euro all'anno netti per 5 anni. Ha sistemato il fratello, che teniamo tutti in famiglia. Tutta la famiglia si è domandato, ma c'è un aereo che mi aspetta per portarmi in un'isola bellissima e una scuola con degli insegnanti che mi interrogheranno su non so bene che cosa, ma chi se ne frega? No, ma chi se ne frega? Dal suo punto di vista ha fatto pure bene, ma perché dobbiamo immaginare che questo è il messaggio da dare ai nostri ragazzi? Quanti ragazzi arriveranno a 18 anni a fare un contratto da 6 milioni di euro? Uno su un milione, ma che modo di... I genitori, il problema, caro Mino, dammi I genitori hanno visto il figlio sistemato a vita, anche loro, il fratello e quindi l'altro figlio sistemato anche lui, perché insomma... A vita? Hanno affidato i loro figli a Raiola, ti rendi conto? Cioè, soprattutto Raiola, ma che si dice Raiola? Si offende poi, Raiola. Ma ti sembra che... Guarda lì, sempre il vecchio lombrosianesimo dovrebbe essere rivalutato. Pensa a Mauro Corona, nostro scrittore preferito, grande amante del lombrosianesimo, cosa direbbe di un Raiola? Perrino, tu cosa diresti di un Raiola? Lo vedi in faccia e dici, ispira un raglio. Ispira fiducia. Io penso che tutta questa retorica, appunto, sul caso Donnarumma non ha molto senso. Il calcio di oggi è questo, come tutto lo show business, e questo è un caso di show business, per cui i romanticismi che forse vengono tirati in ballo per opportunismo, per tattica, hanno concertato. È il mercato che decide i prezzi, noi facciamo i realisti e quelli fighi. No, ma qui c'è la maturità. I professori che hanno detto di rispetto, i professori. Poi devo dire che siamo noi giornalisti, perché i professori siamo andati a cercarli noi per fargli dire queste robe, no? Sì. Sì, un po' andrebbe chiuso il caso. Un po' di mancanza di rispetto l'ha avuta, voglio dire, sicuramente ha fatto spostare gli esami, c'erano altri maturandi. Riguarda il signor Donnarumma, non dovrebbe interessare più di tanto noi, perché di Donnarumma ci occupiamo quando vola in porta e tu sei contento che salva qualche gol. Io sì, poi se lo fa. Siamo legati a lui per questo, il contratto che abbiamo con lui è che non faccia entrare il pallone nella rete, il resto sono cavoli suoi. Cavoli suoi, va bene. Insomma, va bene. Dai, abbiamo parlato di Donnarumma. Adesso sistemiamo questo qui del PD. Oh, c'abbiamo Perrino, c'abbiamo uno del PD. Adesso lo possiamo sistemare per parlare di immigrazione, perché ci hanno anche questo un po' frantumato, i cabassisi, come direbbe uno dei altri nostri scrittori preferiti. No, perché Esposito venerdì scorso, caro Perrino, ci ha detto l'Unione Europea ci piglia per il culo, l'ha detto proprio qui. No? E probabilmente Esposito confermi? Cioè continua questa presa? Sì, diciamo che non mi pare che siamo qualche piccolo passo avanti, ma mi pare che... È semplicemente di facciata, perché sì, i porti continuano a non aprirli. Però diciamogliela a Esposito del PD. Oggi lo dice Mario Mauro, ex ministro della difesa. Ieri l'ha fatto capire Emma Bonino. Non è che abbiamo negoziato con Renzi, col governo Renzi, il... Ci chiudete un occhio dal punto di vista fiscale, economico, ci date un po' di... e in cambio noi accettiamo che tutti i migranti, in cambio di un po' di soldi, ce li cucchiamo tutti noi, e adesso ci siamo vittime di questo stesso nostro giochino, cioè ce lo siamo messi in quel posto da solo. No, è dei 3 giorni che gira questa questione della Bonino, poi sono andato anche ad ascoltarmi il suo intervento, ma e a prendere anche qualche... perché dall'intervento non avevo... non ero in grado solo di capire. Poi ieri mi è capitato di passare qualche minuto con la ministra Pinotti in Senato, e le ho chiesto, diciamo, se corrispondeva al vero. Dice, ma è tutto noto. Cioè, nel momento in cui c'è stata l'accordo con abbiamo chiuso la nostra attività, diciamo, italiana di soccorso, si è aperta l'attività internazionale che ha coinvolto anche gli altri paesi, e quindi sono entrate in campo anche le navi e la parte logistica di altri paesi per provare a intervenire sull'arrivo dei migranti. Il patto, l'impegno è che l'Italia avrebbe usufruito, diciamo, del sostegno degli altri paesi europei, compresi i ricollocamenti, che non ci sono, e venivano salvati, portati in Italia, fatto riconoscimento e poi ricollocati, diciamo, dentro questo quadro. Quindi la questione sta in questi termini. Sì, ho capito. Cioè, li abbiamo presi, ma loro non hanno fatto i ricollocamenti. Quindi ci siamo fregati da soli questi. Ci siamo fidati dicendo voi ci date un po' di soldi, poi ci trattate bene dal punto di vista economico. Noi li prendiamo e li ricollochiamo, e quelli non li hanno ricollocati, e ci siamo fottuti. Questo. Però, Milan, il tema dei soldi, io guarda, lo continuo a ripetere. Guardate che se giochiamo la partita dei soldi, naturalmente noi sappiamo che una parte consistente di quello che serve per soccorso e accoglienza, poi noi lo recuperiamo. Sì, però sì, facciamo attenzione, perché all'Unione Europea... Buongiorno Virginia. Questa mattina si è svegliata Virginia. Perrino, è un momento. Aspetta, concentrati un attimo su Virginia. Perrino, questo è un momento sempre. Esposito, essendo senatore, il venerdì non lavora, si sa, e quindi è a casa e fa la colazione per Virginia, la sua piccolina. E quando si sveglia, adesso poi dopo ci dirà anche qualcosa. Però, privato che diventa pubblico, sì, è una vecchia. Però Perrino, intanto dai, sistemiamolo un posto, senatore. Tanto ha a che fare con la figlia piccola, mica può arrabbiarsi più di tanto. Cioè è un po' così, cioè, abbiamo negoziato dei soldi prendendo i migranti, sperando nei ricollocamenti, saltando i ricollocamenti ci siamo fregati. Questa è la verità. Sembriamo Totò nelle migliori performance, quando andava a fare accordi ridicoli in Voulevon Savoir. Sempre in Europa facciamo la figura degli ultimi, dei cretini, non abbiamo alcun peso, ci hanno rifilato tutta questa grande emergenza e gli interlocutori sono questi personaggi indefinibili che si chiamano Juncker piuttosto che... Cioè, ci hanno fatto un po' uno di quegli accordi tipo quando in autogrill ti vendevano i televisori. Cioè, il pacco, ci hanno dato il pacco. Ci hanno rifilato il paccone. Sì. E noi... brava la Bonino a raccontarlo. Cioè, sì, sì, sì, ci hanno rifilato il paccone. Pensavamo di essere stati furbi. Devo peraltro dire, tu parlavi dello Ius Soli, sì. Noi su Affari Italiani abbiamo fatto, come facciamo tutti i giorni, il sondaggio e la gente sta votando sulla domanda: ma lo Ius Soli secondo te è una priorità? E il 70% degli italiani ci sta dicendo di no, non è una priorità. Non è una priorità, non è una priorità. Vabbè, andiamo al traffico, poi vediamo un po' se anche Virginia adesso la colazione, spero che la colazione sia pronta per Virginia, se vuole dirci qualcosa, entra un attimo. Alino, dai, fanno il balabiozzo, manda il traffico. Alessandro, ritengo sulla questione dei migranti che voi giornalisti siete la malattia, perché più del 60% degli italiani, anche il 70% degli italiani, questa gente non li vuole, non la vuole, e voi vi ostinate in nome di un buonismo stupido e che non serve a nessuno, no? A dire accogliamoli, accogliamoli, accogliamoli. Milan, mi stai talmente sulle balle che spero che vai in ferie e che le ferie siano lunghissime, così non ti ascoltiamo più. Milan, parlano di mandarci in pensione a 70 anni, con magari 50-60 anni di contributi. Altro che golpe ci vuole qui, la bomba atomica ci vuole qui. Vogliamo che le serate dell'estate romana non siano rovinate da episodi legati all'eccessivo consumo di alcol. Per questo oggi ho emanato un'ordinanza valida dal 7 luglio al 31 ottobre per limitare in alcuni casi il consumo di bevande alcoliche. I limiti sono i seguenti: dalle ore 22 non sarà più possibile consumare all'esterno, quindi nelle vie e nelle piazze, bevande in contenitori di vetro. Vabbè, Virginia Raggi che dà le disposizioni sull'alcol. Siamo con Angelo Maria Perrino e con Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico. Esposito, tutto sotto controllo lì? Tutto sotto controllo. Tutto va bene. Stiamo facendo colazione. Sta facendo colazione. Tutto a posto. Ha qualcosa da dire all'Unione Europea, Virginia? Non so, ha un commento da dire? Cioè, c'è qualcosa che pensa sull'Unione Europea, sul fatto che ci siamo fatti fregare da soli? Vi siete fatti fregare da soli e adesso tuonate contro l'Europa? Probabilmente ti saluta. Ciao Virginia! Ciao, tutto bene? Sì, si è sentito un flebile sì in lontananza, cioè, tutto a posto. È più interessata alle gallette in questo momento. Esatto. Ma no. Dell'Unione Europea cosa pensi, Virginia? L'Unione Europea a Tallinn cosa succederà? No, vabbè, questa dai, magari non chiediamogliela. A Tallinn cosa succederà? Allora, però Esposito, poi così adesso vi vedono tutti tuonare contro l'Europa, minniti, però ci ha rifilato il pacco, Guarda, Minniti ormai secondo me è un all'immagine del gladiatore, però sì, un po' sì. Ieri quando è arrivato a Tallinn, secondo me molti hanno detto: oh mamma mia, ci fa un mazzo così. Sì. Devo dire che lui sta facendo un lavoro complicatissimo che dovrebbe far capire anche a tutti quelli che la fanno facile su questo tema e che raccontano quando arriveremo noi tutto sarà risolto. Che probabilmente la questione è un pochino più complicata di come la si vuole raccontare, ma questo lo dico anche a chi si ascolta, perché nei messaggi che ogni tanto mandi, i cittadini dicono non li vogliamo, purtroppo non basta dire non li vogliamo, intanto perché immaginare che le migrazioni si fermano con non li vogliamo. La segreteria è un po' uno sfogatoio, c'è anche molta gente, sono contento che vuol mandare in ferie. No, però la questione è che Minniti avrebbe minacciato anche dei passi, dei gesti eclatanti. Ora, ma che cosa potremmo fare? Perrino, cosa potremmo fare di gesto eclatante? Cioè, che facciamo? Ma aveva parlato della chiusura dei porti, poi non se ne è più parlato. Esatto. Sembrava una cosa complessa giuridicamente, sì, sì. Però evidenziava un atteggiamento per il quale io in questa trasmissione avevo proposto un plauso al ministro, si è un po' squagliato. E poi non so, parlano di ritorsioni sul piano economico, cioè l'Italia versa le sue quote paesi che non entrano in una logica di assemblaggio del. No, l'ultima è questa: uscire da Triton, cioè uscire da questa missione, cioè che vuol dire? Questa è l'ultima idea. Non vorrei essere al suo posto, però Minniti deve, visto che si è accreditato come uomo nuovo e ministro dell'interno sensibile vicino alle questioni rispetto al predecessore Alfano, ora non deve fare marcia indietro come spesso accade in questo benedetto paese. Vedremo. Intanto ma litigano veramente Renzi e Franceschini, Esposito? Tu eri con gli autotrasportatori. No. Ma litigano veramente? No, Perrino dice di no, è tutta una farsa. Sì. No, sai che Franceschini ha da sistemare una trentina di persone, vuole sui 100 capi lista bloccati, ne ha chiesti 30 e Renzi nicchia perché molti di loro ci hanno dietro un sacco di mandati, lo stesso Franceschini credo che sia in Parlamento. Per te è una finta adesso. Cerce la poltrona. Ecco, lo so. Tu, Esposito, che dici? Stanno litigati un po' Renzi e Franceschini? Beh, c'è una discussione abbastanza franca. Reale. Dai, franca, dimmi, discussione franca, come si dice tra di loro. Sai, con Renzi, che a differenza di altri leader politici, io non è uno, diciamo, rancoroso, però quando si discute a muso duro, e devo dire, posso dire, io la preferisco all'ipocrisia, no, delle discussioni franche e oneste che diciamo, ci hanno ammorbato per 30 anni e poi se potevano si tiravano anche le suppellette. I giornali parlano di duello, ma con Renzi che dice o stanno con me i leader o ne faccio a meno. Ma lui beh, questo secondo me però è un pezzo del suo limite. Il tema è facciamo la discussione fino in fondo, anche con le mani in faccia, come si diceva quando eravamo piccolini. Però poi si deve raggiungere anche l'obiettivo finale. Anch'io personalmente trovo un po' singolare, ma te l'ho detto la scorsa settimana, questa discussione sulle alleanze è veramente lunare. Interessa più 3 che 300 persone. Non è solo un tema di interesse, è che con chi ci dobbiamo alleare? D'Alema non si vuole alleare, Bersani non si vuole alleare, Tabacci non si vuole alleare, forse Pisapia, che però senza gli altri credo, come dire, farebbe una testimonianza dignitosa. Alla fine vedi chi rimane? Berlusconi. No, aspetta, però io devo finire, ma voglio sapere, ma Virginia cosa pensa di Donnarumma? Vuoi chiedergli qualcosa su Donnarumma? No, perché dobbiamo turbarle, diciamo, in pace serena, dedicata, lei mi sembra portata verso la danza, la ginnastica artistica, vabbè. Donnarumma lì non c'è, lasciamola tranquilla. Dai. Ci dobbiamo fermare qui, ringrazio Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico, lo lasciamo alle sue colazioni del venerdì da preparare alla sua piccola Virginia, chiamata così, ricordiamo, in onore del sindaco di Roma Virginia Raggi. Scherzo, ovviamente è il solito scherzo del venerdì. Saluto anche Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it, e ci troviamo alla prossima. È arrivato Milana Lino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Signori, eccoci qui alle 7:19 minuti. Siamo nello spazio dedicato alla lettura dei giornali, la rassegna stampa di 24 mattino. Poi stasera vi voglio tutti a Ripa Teatina. Mi chiedono: ma che fai a Ripa Teatina? Andiamo a Ripa Teatina al festival, al premio Rocky Marciano. C'è anche Leonardo Manera. Facciamo un'edizione particolare, speciale di Platone. Questa sera alle 21 siamo in piazza a Ripa Teatina. E venite, siamo in Abruzzo, una bella località. Si mangia gli arrosticini, si sta lì. Dai, allora caro Peter Pescapè, siamo pronti a leggere i giornali, andiamo! È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! E alle venerdì 7 luglio, per la precisione, con le aperture dei quotidiani. Il Sole 24 Ore, lotta all'evasione, il fisco dice addio al redditometro. Questo è il titolo di prima pagina dopo tante polemiche. Lo stop ai controlli su auto, case e viaggi. Italiani, tirate un sospiro di sollievo? Chi lo sa? I migranti invece, inevitabili ancora l'apertura di molti quotidiani, stop a nuovi porti per i migranti, l'Italia reagiremo, è l'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica invece, migranti, l'Italia è sempre più sola. Il Messaggero, porti chiusi, l'Italia non ci sta. Il Giorno titola così, porti in faccia. Per La Verità invece, gli accordi segreti di Renzi per riempirci di immigrati, altro che colpa dell'Europa. Il Giornale, le prove che Alfano e Renzi hanno svenduto l'Italia. Il tema è simile. I ministri dell'inferno è invece il titolo del manifesto al vertice di Tallinn. Altro che ministri dell'interno, scrive il manifesto, ministri dell'inferno. C'è la foto di profughi in difficoltà su barcone e dunque, come dire, si sta dalla parte dei migranti per il manifesto. La Stampa, la sfida di Trump a Putin, fermati. Mentre Il Fatto Quotidiano si concentra sulla politica interna, parte la congiura contro Renzi nel PD. Avvenire, Charlie, ore decisive, pronto il trattamento. La vicenda di Charlie Gard, il bambino inglese, potrebbe essere oggi il giorno in cui in Gran Bretagna staccano la spina per ordine di tribunali e decisione dei medici. Mentre Libero ha un titolo che spiazza un po' tutti sul fronte politico, eccellente idea di Berlusconi, Marchionne Premier. In un colloquio con Libero, Silvio lancia la candidatura del numero uno della Fiat Premier. La politica ieri ha litigato. Sono litigati, ma non sono Renzi e Franceschini, I litigi sono su un provvedimento di legge che pareva sacrosanto nel principio, che ora tutti dicono essere sacrosanto, però tutti hanno litigato, appunto. E per il momento il provvedimento è fermo. Nonostante il sì della Camera, su un testo che introduce una serie di tutele per i figli delle vittime di femminicidio. Pensate un po' a queste situazioni. Chi sono queste persone? Sono spesso minori. Quando c'è un femminicidio, un uomo che uccide una donna, cosa succede per il bambino che si ritrova di colpo senza la madre e anche senza il padre che spesso va in carcere, a volte si tolgono la vita, ma comunque se va in carcere, come è giusto che sia, e il bambino e i bambini? Ebbene, si ipotizza una legge per maggiori tutele per i figli delle vittime di femminicidio. Ebbene, tutto bloccato. Orfani di femminicidio, stop al testo. Da Forza Italia al Senato l'accusa. Così si dà la parità anche alle unioni civili, cioè ai possibili figli, nel caso in cui non c'è un femminicidio, ma in una coppia di persone dello stesso sesso succede questo tipo di delitto, che succede ai figli? Vengono equiparati dunque al matrimonio? Cioè ci rendiamo conto del tipo di ragionamento? Comunque, Giuseppe Alberto Falci racconta sul Corriere della Sera uno stop al disegno di legge in favore degli orfani di femminicidio fa scoppiare la polemica a Palazzo Madama e contrappone nuovamente PD e Forza Italia. Motivo della discordia, dietro fronte gli azzurri, che alla Camera avevano sostenuto il provvedimento, mentre al Senato gli hanno frenato l'iter. Secondo i senatori di Forza Italia, nel testo si fa riferimento anche ai figli delle unioni civili, facendo così rientrare dalla finestra un tema che ha diviso il Parlamento. Si scatenano le ire di Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega da pari opportunità. Stupore e dispiacere per questa scelta del gruppo di Forza Italia al Senato di stoppare la legge in favore degli orfani vittime di crimini domestici approvata all'unanimità dalla Camera. Mentre Mara Carfagna, dal fronte centrodestra, dunque Forza Italia, intervistata anche da La Stampa, dice: la notizia è che la Boschi c'è, non è stata un interlocutore quando la proposta è stata approvata alla Camera, così come non ricordiamo sdegno e stupore di fronte a una norma inserita nella riforma del codice penale che permette di estinguere il reato di stalking pagando. È stucchevole il suo ergersi a paladina dei diritti a giorni alterni. Questa è la risposta Poi Romani di Forza Italia fa un po' dietro fonte e dire no, sono solo problemi tecnici, una volta che li appianeremo voteremo questa legge sacrosanta. Il risultato è che è tutto bloccato per una cosa, per una legge che francamente è sacrosanta per l'appunto, e vederlo dal punto di vista magari del figlio di una vittima di femminicidio fa un po' un certo effetto, Mentre invece si va avanti in maniera imperterrita sulla questione dei vitalizi ai condannati riabilitati che hanno ottenuto indietro anche la restituzione di tutti gli interessi dei vitalizi, degli arretrati degli interessi dei vitalizi che erano stati bloccati dalla Camera. Vitalizi ai condannati, il Movimento 5 Stelle scrive a Boldrini, pagina 16 di Repubblica, che ha tirato fuori con Sergio Rizzo questo caso due giorni fa. Dopo la restituzione dei vitalizi con tanto di arretrati a tre ex deputati condannati ma poi riabilitati, 5 Stelle e PD chiedono di modificare la delibera con cui il Parlamento nel maggio 2015 ha regolamentato la materia. Parla però uno dei tre riabilitati che hanno ottenuto indietro il vitalizio, l'ex deputato Massimo Abbatangelo, intervistato da Ottavio Lucarelli. Il PD, erede del Partito Comunista, mi ha perdonato. I giudici mi hanno riabilitato. Non ho fatto altro che seguire ciò che indica la legge. Ora attendo che riprenda l'assegnazione del vitalizio con relativi 26 mesi in cui mi era stato bloccato. Così lui, 75 anni, 4 legislature alle spalle col Movimento Sociale, ha ottenuto la riabilitazione dopo due condanne. La prima per l'incendio nella sede del Partito Comunista fuori Grotta, 1970. La seconda, 6 anni, detenzione di esplosivo. Ora la Camera dovrà riprendere l'erogazione dell'assegno di vitalizio. E lui dice, ho trascorso 2 anni a casa di mia figlia, mi hanno aiutato i 2 miei figli, l'avvocato Ricciulli, che ha seguito ogni udienza fino alla riabilitazione. E il Movimento 5 Stelle si oppone, invito Beppe Grillo a un confronto pubblico con me a 360 gradi, con altri non parlo. Così Massimo Abbatangelo dice è giusto e finalmente torno a vivere con dignità. Oh signore, invece c'è un cantante, magari voi lo conoscete, Stephen Patrick Morrissey, cantautore inglese, ex voce degli Smiths, che è venuto a Roma e ha creato un putiferio non indifferente. È stato beccato con la nipote che guidava contromano in via del Corso, a tutta velocità, dicono tra l'altro gli agenti della polizia, che l'hanno fermato. Ci sono anche le misure antiterrorismo. Fermato, lui ha iniziato a sbraitare, a scrivere su Facebook, gli italiani sono degli psicopatici, c'era un agente di polizia che mi ha riconosciuto, l'agente di polizia dice nessuno l'ha riconosciuto, effettivamente io non sapevo neanche della sua esistenza fino ad oggi, vabbè, ma insomma, limite mio, ma se lo vedo in faccia dico, bah, e chi è questo qui? Lui dice mi hanno riconosciuto, mi hanno minacciato, lui ha fatto la foto al poliziotto, attenzione questo poliziotto poteva uccidermi, è pericoloso, gli italiani sono psicopatici, annullo tutti i concerti, insomma un putiferio scatenato da lui stesso soprattutto. Morrissey contromano si ribella alla polizia, gli italiani sono degli psicopatici, dopo essere piombato in via del Corso e dopo aver litigato con gli agenti, è stato anche denunciato dalla procura, ma lui ha annullato tutti i concerti previsti nel nostro paese. Siete dei fan di Morrissey? Mi spiace per voi. Ma su questo oggi si esercita Michele Serra con la maca in prima pagina di Repubblica. Roma, una macchina in bocca, via del Corso, contromano e a velocità sostenuta secondo un rapporto di polizia. Un'infrazione clamorosa di questi tempi, sospettabile delle peggiori intenzioni. Agenti in pattugliamento, la fermano, armi alla mano, identificano il guidatore che non oppone resistenza. Al suo fianco c'è un cantante, l'inglese Morrissey, piuttosto famoso, ma non abbastanza da essere riconosciuto dagli agenti, circostanza che lo indispone al punto di decidere di annullare i concerti in Italia. Bisognerà avvertirlo con la dovuta delicatezza che il 90% degli italiani, percentuale approssimata per difetto, non solo non lo riconoscerebbe per strada, ma non sa nemmeno chi sia. Bisognerà anche spiegargli che in Europa, a parte l'ascolto attento e appassionato delle sue canzoni, sono in corso anche altre attività, tra queste fermare un'automobile che percorre contromano e a forte velocità una via gremita di gente, non è tra le meno importanti. Avrebbe potuto accadergli di essere bruscamente fermato per le stesse ragioni anche a Londra o a Parigi. Allora o Morrissey cambia autista o rischia di dover disdire anche i concerti in Inghilterra e in Francia. Ecco, e chiudiamola qui. Ma Repubblica e Messaggero dedicano una pagina, il titolo di Repubblica: italiani psicopatici, il rocker si infuria e cancella il tour. Mentre siamo all'articolo che mi fa della giornata, l'articolo da Mani sul Volante a proposito di guida non contromano, sono molto felice che il sociologo De Masi, 79 anni, docente di sociologia del lavoro alla Sapienza di Roma, sia stato pagato per un lavoro. Chi fa un lavoro deve essere pagato. Il problema è che il sociologo De Masi è il teorico del lavorare gratis, lavorare tutti. È già, predica il lavoro gratis altrui e la Camera lo liquida con 56.000 euro. Paolo Bracalini sul Giornale racconta del sociologo De Masi, molto stimato da Casaleggio Junior, che si è fatto fatturare dai grillini con soldi pubblici dei fondi dei gruppi parlamentari 56.771 euro per una ricerca, tutto messo nero su bianco dalla deputata Laura Castelli, tesoriere del gruppo 5 Stelle. Dunque, importo complessivo di 56.771 euro riguardante uno studio ricerca commissionato al professor De Masi e al suo team sull'evoluzione del lavoro post-industriale tra il 2016 e il 2025. Il guru del Movimento 5 Stelle si fa pagare una ricerca dal gruppo ed è giusto così. Lui che teorizza il lavorare gratis, lavorare tutti gli altri. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il tribune dell'informazione. Beh, questa non è bellissima, questa non è bellissima, però va bene, ci sta tutto. Allora, cari ascoltatori, parliamo di migranti, perché a Tallinn c'è questo incontro dei ministri dell'interno e si parla e si cerca di strappare qualche situazione buona per l'Italia, anche se i titoli non sono molto incoraggianti. L'Italia resta da sola, è il titolo più incoraggiante che si legge oggi sui giornali. Lo stop dell'Unione Europea agli sbarchi in porti diversi. Anche qui c'è da dire, a Tallinn non è un tema sul tavolo quello dei porti, di aprire altri porti. Eppure tutti gli stati europei hanno subito messo in chiaro fin da subito: guardate, se pensate che l'Italia possa chiederci di aprire i porti di altri paesi europei, si sbaglia. Beda Romano, pagina 8 del Sole. I 28 hanno dato ieri a Tallinn il loro sostegno al piano d'azione della Commissione europea presentato martedì, in modo da aiutare l'Italia nella gestione dell'emergenza migranti. L'idea italiana di modificare il mandato delle operazioni in mare per consentire lo sbarco dei migranti in porti diversi da quelli italiani ha invece suscitato reazioni contrastanti. I ministri hanno anche approvato l'idea italiana di creare un codice di condotta per le organizzazioni non governative. Il piano d'azione comunitario è per molti versi il proseguimento della strategia già in essere. Prevede aiuti finanziari all'Italia, così come una collaborazione accresciuta con i paesi di partenza e di transito. I ministri hanno accolto positivamente la strategia comunitaria. Dunque, sì ai soldi, sì al controllo più regolamentato delle ONG, ma no apertura di altri porti. Tanto che Minniti, racconta Fabio Tonacci su Repubblica pagina 2, dice: non lasciate l'Italia da sola, altrimenti saremo costretti ad azioni unilaterali. Io non voglio, ma come ministro dell'interno non posso escluderlo. A cosa si riferisce Minniti? Forse lo si legge sul Messaggero, cioè cosa pensa l'Italia. Forse uscire da quel patto, da quel piano Triton o Tritone, Triton, come lo volete chiamare, pronti a gesti eclatanti, la mossa via da Triton. Cristiana Mangani racconta pagina 3 del Messaggero, visto che il bilancio del vertice di Tallinn è tutto nelle parole del ministro Minniti, che dice non dovete lasciare solo l'Italia, le iniziative possibili potrebbero essere queste: uscire da Triton, la revisione di questo piano Certo, c'è da dire che prima l'Italia aveva detto chiudiamo i porti, poi si è capito che non si poteva fare. Ora usciamo da Triton, in quel Triton in cui siamo entrati, e due giorni fa Emma Bonino, ex ministro, ha suscitato un putiferio dicendo di fatto che noi all'inizio non ci siamo resi conto del problema strutturale non di una sola estate, e noi abbiamo chiesto che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia. L'accordo l'abbiamo fatto noi, violando di fatto Dublino. Questo richiamo di Emma Bonino ha suscitato un dibattito, e ecco che allora giornali come La Verità, Il Giornale, La Verità, Letta e Renzi ci hanno messo il cappio al collo. Il primo si adoperò per superare Mare Nostrum, il secondo lo sostituì con Triton, accettando di fare dell'Italia il punto di arrivo dei salvataggi del Mediterraneo. E effettivamente anche Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle si legge sulla Verità, dice: leggendo il piano operativo Triton si capisce chiaramente che gli sbarchi in Italia sono stati chiesti dal nostro governo. Dopo la chiusura di Mare Nostrum, Alfano negoziò con l'Unione Europea l'apertura di Triton. Presentandola disse che si trattava di un'operazione coincidente con Mare Nostrum, ma a carico dell'Europa. E sì, perché il sospetto è questo, cari ascoltatori. Noi abbiamo detto firmiamo Triton, accettiamo che tutti i migranti arrivino, anche quelli presi dalle navi battenti bandiera di altri paesi, quindi violazione del Trattato di Dublino, visto che se uno arriva in una nave battente bandiera, che ne so, tedesca, in teoria formalmente già sul territorio tedesco, secondo Dublino dovrebbe essere trattato dalla Germania. Noi accettiamo invece che vengano tutti qui, tanto poi ci sono i ricollocamenti in Europa. Risultato che i ricollocamenti non ci sono, quindi l'ultimo anello di questo patto non viene rispettato. Risultato: ci hanno rifilato un bel paccone. Un bel pacco, come quando agli autogrill ti vendevano le TV finte con dentro i mattoni. Tutto d'accordo, tutto bellissimo, però alla fine apri e ci sono i mattoni. E quindi noi abbiamo accettato, vengano tutti qua, li identifichiamo, poi dopo li ricollochiamo in Europa, e l'Europa sul ricollocamento ci dice marameo. E quindi si crea questo imbuto e questa situazione. Parla al Corriere della Sera Federica Mogherini, capo della diplomazia dell'Unione Europea, intervistata da Paolo Valentino, cerca di vedere gli aspetti positivi. Roma ha imposto i suoi temi. Sull'accoglienza dice però manca solidarietà, c'è una contraddizione nel fatto che la maggioranza degli stati membri, che pure lavorano insieme su tanti argomenti questioni dei migranti, non offra una significativa solidarietà interna nella gestione dell'accoglienza. È una battaglia politica non semplice che va combattuta, ma in una settimana l'Italia è riuscita a ottenere processi e progressi importanti su Libia, Africa, codice di condotta delle ONG. È un successo da non sottovalutare, dice Federica Mogherini, che dunque ci invita a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma il dato di fatto è che è un po' tutto complicato. Vi voglio segnalare, per quel che riguarda la questione, se volete, europea internazionale, che inizia il G20 ad Amburgo. C'è Donald Trump che a Varsavia ha attaccato il Cremlino, dunque ha attaccato Putin. Sapete che Trump è stato accusato di essere molto vicino a Putin, e ora invece dice Donald Trump è destabilizzante. Il capo della Casa Bianca ha difeso l'Alleanza Atlantica. Tra l'altro ci sono stati i soliti scontri di Piazza d'Amburgo, i G20, Black Bloc, insomma qualcosa un po' anche di stantio in questi soliti scontri. Vi segnalo anche a livello internazionale, io lo leggerò tutto dalla prima all'ultima riga perché sono fanatico di tutto quello che si scrive sulla Corea del Nord, questo misterioso paese che però affascina a suo modo nella sua chiusura. Vi segnalo Angelo Acquaro che firma su Repubblica 8 pagine sul piccolo dittatore Kim Jong-un, colui che spaventa il mondo con i suoi missili, sfida Trump, ma in realtà sogna di arrivare a New York. È un profilo molto, molto interessante su Kim Jong-un, uno che pratica il comunismo e poi ha gli yacht, come dice anche il suo amico personale, l'ex campione di basket dell'NBA Dennis Rodman, che è uno dei miti di Kim Jong-un, è andato a trovarlo e qualche cosa ha svelato su queste manie del dittatore della Corea del Nord. Tra crudeltà, eccessi pop e ambizioni senza confini, il profilo di Kim Jong-un lo trovate 8 pagine su Repubblica. Paese nel quale manderei, per esempio, volentieri per un reportage accurato il nostro Mauro Meazza. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Ma perché non programmare un viaggio insieme, caro Alessandro? Ma come no? Visto che sei così interessato alla Corea del Nord, andiamoci, recchiamoci entrambi per raccontare questo curioso paese. Verrebbe da dire, sì. Così possiamo vederlo da vicino. Va bene, ieri era la giornata mondiale del bacio. Bene. Com'è andata? Tutto bene? Abbiamo limonato duro, sì, io te. Con Bescapè, no, per capire. No, vabbè. Oggi invece vorrei lanciare un'idea della giornata nazionale del, sì, redditometro. Oh. Così, tanto per... No, perché ti fa... Beh, insomma, adesso... Perché ti parlo del redditometro? Perché, come avrai appreso dal Sole 24 Ore, dalla pagina 3 soprattutto, Giovanni Parente ti dice che il redditometro non si usa più. Mm. Un po' come le cose che passano di moda, hai capito? Ci sono cose, sì, che non si porta non più, vanno, il redditometro. Non vanno più così, no, a vita, no, larga, infatti, ma... E soprattutto perché rende poco, è stato certificato la Corte dei Conti nell'anno scorso, i controlli da redditometro, 2 milioni di recupero. Di evasione, quindi insomma diciamo che non è lo strumento più adatto, più efficace, ma ti spiega tutto oggi sulle 24 ore, che vuol dire che non si fanno più i controlli, no, si fanno altre cose, ad esempio le lettere ti ha scritto, ma il fisco, l'agenzia delle entrate ti ha scritto, Buah, è andata bene fino adesso, vediamo se poi in futuro ti scriverà. Oh, interessante e quasi da meditazione la questione degli esuberi in banca, di cui, sì, riferisce Cristina Casadei, perché ci sono 25.000 uscite in corso, sai, la crisi delle banche poi vuol dire anche crisi degli sportelli, tutti i particolari oggi sul Sole 24 Ore, pagina 5, te ne consiglio la lettura, molto interessante, anche sul calo complessivo degli sportelli. Ricordati che oggi c'è Moda 24, sì, tra l'altro parliamo di studiare per la moda, cioè fare la formazione per andare poi a lavorare nella moda, e domani ricordati che domani c'è Plus per tutto i tuoi segnato. Risparmi, i tuoi 2 eurini, hai segnato? Ho segnato tutto. Bravissimo, allora continua a segnare perché invece lunedì aspettiamo il debutto dei voucher, ma già oggi nelle pagine Norme e Tributi torniamo sulla circolare IMSS, sai che è uscita questa circolare, no? Mentre tu ti dedicavi alla Corea del Nord, l'IMSS faceva una circolare sui voucher e la circolare sui voucher tra l'altro chiarisce cosa non si può fare in agricoltura e cosa si può fare, quindi vai a Norme e Tributi, scoprirai tutte questi dettagli. Naturalmente si continua a discutere dei danni punitivi, la sentenza che ti segnalavo ieri, sì. So che tu sei refrattario, ma ti assicuro che la decisione della Cassazione è importante. Ma poi ti voglio dire, so che tu sei sempre attento alle questioni della pubblica amministrazione, dei furbetti, del cartellino, eccetera. Allora, lunedì, tra le tante altre cose, è atteso il varo definitivo del decreto per licenziamenti dei furbetti del cartellino, entro 30 giorni. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ci siamo. Aspettiamo. Intanto buon fine settimana, buona domenica, vai in Corea del Nord. Vado a Ripate a Tira, un po' più vicino. Già, hai già un impegno, quindi non puoi accompagnarmi in Corea del Nord. No. Allora facciamo il prossimo fine settimana, per il momento traffico. Alessandro Milan, il gladiatore dell'informazione. Addirittura, signori, va bene. Dai, dobbiamo parlare anche di questa legge che si sta approvando. Il nuovo codice antimafia che è passato ieri al Senato estende la misura estrema del sequestro di beni anche agli indiziati di corruzione, concussione, terrorismo, stalking. Questa... Nuove misure fanno un po' discutere e rendono perplessi alcuni che dicono ma davvero bisogna equiparare a reati di mafia anche gli indiziati di corruzione, concussione, terrorismo e stalking? Beh, qualche dubbio c'è. A questo proposito il buongiorno di Mattia Feltri in prima pagina della Stampa racconta una storia che è emblematica. Il titolo è Sequestro di senatore. Conoscete la storia dei fratelli Cavallotti? I fratelli Cavallotti avevano ereditato dal padre un'azienda Belmonte Mezzagno, Palermo. L'avevano ampliata fino a contare 400 dipendenti. Tanti erano quando a fine anni 90 tre dei fratelli finiscono in carcere per mafia. Si fanno 2 anni e mezzo, poi sono assolti. Segue l'appello, la Cassazione e in capo a 10 anni la loro innocenza diventa definitiva. Capito? Definitiva l'innocenza. Intanto però l'azienda, con l'intero patrimonio di famiglia, è stata sequestrata preventivamente. L'amministratore giudiziario combina qualche pasticcio, diciamo così. Oggi l'azienda non c'è più. I 400 operai sono disoccupati. Non è una storia rara, magari meno eclatanti, magari più trascurate, ma di storie così ce ne sono. Questa la si racconta perché ieri il Senato ha esteso le regole antimafia all'anticorruzione. Significherà che basterà essere sospettati di associazione a fini corruttivi per vedersi sequestrare tutto. Poi, se assolti come i Cavallotti, tanti auguri. Non solo la mafia, pure la corruzione è un'emergenza, ha spiegato il ministro Finocchiaro. Anche lo stalking è un'emergenza, ha detto la senatrice Lo Moro. Quindi il sequestro si farà anche ai sospetti stalker e ai sospetti terroristi. Hanno scordato l'emergenza vaccini, l'emergenza incendi, l'emergenza migranti, l'emergenza xylella, l'emergenza pitbull e tante altre emergenze. Poi al primo politico cui faranno un sequestro preventivo scopriremo l'emergenza sequestri preventivi e ovviamente sarà colpa dei magistrati. Così Mattia Feltri, il Buongiorno sulla Stampa. In tutto questo, come vedete, ho tralasciato i litigi all'interno del Partito Democratico. Sono litigati Renzi e Franceschini. Ecco, questo è il titolo. Faccio tra l'altro mio l'appello di Matteo Renzi, che ha detto la discussione interna al PD interessa solo 3 o al massimo 300 persone, e in nome di questa sacrosanta verità oggi non vi dirò nulla di quello che trovate abbondantemente del dibattito all'interno del Partito Democratico, perché è effettivamente così. Parliamo di cose che interessano più alle persone. Tra queste, che cosa? È l'ultimo grido della madre. Dall'Inghilterra staccano la spina a Charlie. I genitori chiamano la fondazione Mitcon, che afferma è pronto il protocollo di cure, e allora forse è il giorno in cui dalla Gran Bretagna, applicando una sentenza, applicando il volere dei medici contro i genitori, verrà staccata la spina al piccolo Charlie Gard, e questo staremo a vedere. Ci sono anche dei dati molto inquietanti, oltre che interessanti dal punto di vista da studiare, sull'omicidio stradale. 30 arresti, ma le vittime continuano a crescere. Sono i dati della Polstrada: in 15 mesi 479 denunce per omicidio stradale, dall'inizio dell'anno ci sono 4,6% di morti in più rispetto all'anno precedente. La colpa, come ha detto il prefetto Gabrielli, capo della polizia, è quasi sempre degli smartphone. Questi maledetti smartphone alla guida, ovviamente, dice Gabrielli, benedetti nel senso che sono uno strumento tecnologico che ci hanno cambiato la vita, tante volte in meglio, ma modificano i nostri livelli di attenzione. È importante essere connessi col mondo, ma anche e soprattutto esserlo con il veicolo che guidiamo. Questo ha detto il capo della polizia. La maggior parte degli incidenti sono proprio legati a questo, l'utilizzo del cellulare mentre si guida. Va bene, vi segnalo tante pagine dedicate ancora a Donnarumma. Basta la maturità di Donnarumma. Col ministro Fedeli, che sulla maturità ha avuto qualche problema e che consiglia a Donnarumma di fare l'esame di maturità. Cioè, capite che c'è qualcosa che non va. Comunque, Donnarumma senza maturità, la preside che dice un cattivo esempio, i giocatori di calcio non devono essere un esempio per i figli. Se qualcuno pensa a uno sportivo che deve solo parare i rigori a un esempio per i propri figli, forse è il messaggio sbagliato. Gli esempi per i figli sono altri. Se uno lo vede in un Donnarumma, che non fa l'esame di maturità ha qualche problema nell'educare i propri figli. Quindi non sono quelli gli esempi, ma sono altri. In tutto questo, ieri era la giornata mondiale del bacio e oggi il Corriere della Sera, siamo all'articolo più inutile che c'è sui giornali, dedica un'intera pagina sui memorabili baci. Ma chi se ne frega!